In linea con l'Europa. Buongiorno e bentrovati a In linea con l'Europa, il settimanale di informazione europea di Radio 24. In primo piano la lotta al terrorismo sull'onda emotiva degli attentati di Madrid. A questo tema dedichiamo l'approfondimento con la cronaca del vertice dei ministri dell'interno dell'Unione e un'analisi della situazione. Approvare in tempi rapidi la Costituzione europea, questo è il messaggio lanciato da Jacques Delors nel nostro incontro settimanale. L'ex presidente della Commissione espone la sua visione di Europa. Infine, per la rubrica Europa di servizio, parleremo di Erasmus e programmi di studio all'estero. Ma per cominciare facciamo un riepilogo delle notizie dell'ultima settimana. È stato l'allarme terrorismo seguito agli attentati di Madrid a caratterizzare la settimana in Europa, culminata con il vertice straordinario di venerdì a Bruxelles, ma di questo torneremo a parlare nell'approfondimento. Il tema della lotta al terrorismo ha tenuto banco anche al meeting di lunedì a Parigi tra il presidente francese Jacques Chirac e il cancelliere tedesco Gerhard Schröder. I due leader europei hanno chiesto una maggiore cooperazione tra i paesi dell'Unione nella guerra contro il terrore e hanno proposto un rilancio del processo di pace in Medio Oriente. Ottimismo è stato espresso sulla Costituzione europea. Sull'onda del crack a Parmalat, la Commissione europea ha proposto una nuova direttiva sulla revisione contabile. Il suo obiettivo è garantire gli investitori. La normativa chiarisce gli obblighi dei revisori legali dei conti e stabilisce alcuni principi etici per assicurarne l'obiettività e l'indipendenza. I negoziati tra Microsoft e l'antitrust europeo, tesi a evitare la condanna del colosso statunitense per abuso di posizione dominante, sono falliti. Mercoledì la Commissione emetterà un verdetto di colpevolezza e una multa, il cui ammontare deve essere ancora stabilito. Importanti progressi sul fronte della liberalizzazione del settore ferroviario in Europa. I 15 Stati membri e l'Europarlamento hanno raggiunto un accordo per aprire completamente il trasporto su rotaia delle merci all'interno del vecchio continente a partire dal 1 gennaio 2007. L'Europa ha vissuto una settimana molto delicata sull'onda degli attacchi terroristici dell'11 marzo a Madrid. A questo tema dedichiamo l'approfondimento che si svolge in contemporanea alla riunione dei ministri degli esteri dell'Unione, sulla quale incombono anche i drammatici sviluppi di questa mattina in Medio Oriente. Ma facciamo un passo indietro e torniamo al vertice dei ministri dell'interno di venerdì scorso. I ministri hanno varato un pacchetto di misure che prevede, tra le altre cose, la nomina di un coordinatore europeo per la lotta al terrorismo, l'anticipo della clausola di solidarietà in caso di attacchi, la creazione di un centro informativo per lo scambio di informazioni tra le intelligence dell'Unione, la protezione di testimoni e pentiti, l'anticipo dell'introduzione dei dati biometrici nei visti e l'adozione della direttiva per gli indennizzi alle vittime. Il presidente di turno, l'irlandese Michael McDowell, ha così espresso la propria soddisfazione per i risultati raggiunti. Penso che abbiamo contribuito in maniera sostanziale a sviluppare un approccio comprensivo alla lotta contro il terrorismo, che aiuterà l'Unione Europea e gli Stati membri a rispondere agli eventi spagnoli e che migliorerà le nostre capacità nel portare la nostra lotta in modo diretto ai terroristi. Questo pacchetto è una risposta comprensiva alla minaccia, così drammaticamente sottolineata dai terribili eventi di Madrid. Il ministro degli interni francese Nicolas Sarkozy ha invece posto l'accento sulla necessità di creare avanguardie di paesi anche nel campo della lotta al terrorismo. Una prima avanguardia dovrebbe essere rappresentata da Italia, Germania, Francia, Gran Bretagna e Spagna, i cui capi dei servizi di intelligence si riuniscono oggi a Madrid. Questi paesi sono pronti ad anticipare lo scambio di dossier e informazioni. Cinque paesi che spianano la strada, abituati a lavorare insieme, che possono avanzare su questo o quel dossier. Aggiungo che questi cinque paesi hanno anche le intelligence più forti e che nessuno naturalmente è escluso da questo cammino, ma la situazione che conosciamo è già così difficile per armonizzare le regole a 25, figuriamoci cosa sarebbe se questi cinque arrivassero senza accordo tra di loro. Io e il ministro Perbet non diciamo che se cinque sono d'accordo gli altri debbano per forza allinearsi, questa non è Europa e tutti capiscono che il lavoro tra di noi deve essere rafforzato. Chi può dire che questo complicherà le cose? Dopo un'ulteriore discussione della strategia antiterrorismo oggi tra i ministri degli esteri, il piano passa al varo dei leader dell'Unione che si riuniscono giovedì e venerdì a Bruxelles. Ma a che punto è la strategia europea antiterrorismo a 2 anni e mezzo dall'11 settembre? Con Daniel Keohan, analista del Center for European Reform di Londra ed esperto di politica di sicurezza, abbiamo discusso la situazione attuale. Il problema dell'antiterrorismo a livello europeo è che anche se sono state adottate misure già dopo l'11 settembre, come il mandato di arresto europeo, queste non vengono implementate da tutti gli Stati membri. Quindi che senso ha mettere in cantiere numerose iniziative se queste non entrano de facto in vigore? Il secondo problema è che l'Unione Europea ha risorse davvero minime per combattere il terrorismo a livello comunitario. Parlo della cooperazione di intelligence perché questo è l'elemento più importante nella lotta al terrorismo. I servizi segreti dell'Unione non trovano un'adeguata rappresentanza a livello europeo, né sono intenzionati o preparati a condividere informazioni, preferiscono una cooperazione bilaterale. Sono un po' scettico sul fatto che il prossimo Consiglio europeo porti proposte più concrete. La presidenza irlandese ha suggerito l'istituzione di un coordinatore per la sicurezza. Non mi è chiaro come questa persona possa essere utile, a meno che non gli vengano assegnati un budget e uno staff adeguati. Forse gli unici progressi li vedremo nel settore della gestione delle frontiere esterne, ma se non riusciremo a migliorare il coordinamento dell'intelligence a livello europeo, difficilmente l'Europa diventerà un attore di peso nella lotta al terrorismo. Siamo così all'incontro di questa settimana che vede protagonista l'ex presidente della Commissione europea Jacques Delors. Delors, a capo dell'esecutivo comunitario dal 1985 al 1995, è uno dei padri dell'atto unico del Trattato di Maastricht e dell'Unione monetaria. Lo abbiamo incontrato nel corso di una recente conferenza stampa a Bruxelles, nella quale ha così definito i pilastri su cui poggia l'Unione europea. La paix. L'adattazione dell'economia europea. La pace, l'adattamento dell'economia europea alla nuova situazione mondiale e tecnologica. L'influenza esterna e la coesione economica e sociale introdotta dall'atto unico. Se vogliamo restare fedeli a questi principi, è ridicolo che alcuni paesi chiedano di mantenere il tetto di budget fissato all'1%. Dunque, l'obiettivo è la coesione economica e sociale. L'esperienza storica mostra che da quando la coesione economica e sociale esiste, l'impegno della società civile, delle regioni, delle collettività locali in Europa è notevolmente cresciuto e che anche se non abbiamo ancora un forte sentimento di appartenenza all'Europa, sono le politiche strutturali quelle che hanno maggiormente modificato il clima alla base. Jacques Delors esprime così la sua visione dell'Europa a due velocità. L'Europa a due velocità è un'idea che da parte mia ho sempre scartato. Compenso noto che la storia dell'Europa è stata fatta grazie alla differenziazione, cioè la possibilità data a un paese in un certo momento di rifiutare provvisoriamente alcuni avanzamenti, come accadde ad esempio per la Gran Bretagna, che a Maastricht rifiutò l'Unione Economica Monetaria e il capitolo sociale. Se tutto questo non fosse stato concesso, non ci sarebbe stato accordo e ci saremmo trovati in una situazione imbarazzante come quella di oggi, con la Costituzione Europea. Se avessimo dovuto aspettare che tutti i 15 si trovassero d'accordo sull'Unione Economica e Monetaria, oggi non avremmo l'euro. La differenziazione quindi è intrinseca all'Unione. Ma cosa significa differenziazione? È semplicemente quando alcuni paesi dicono datemi alcuni anni di tempo per volere e poter fare questo e altri dicono non vi aspettiamo. Ma tutto questo dinamizza l'Europa e non è mai definitivo. Tutto questo, secondo me, si deve situare all'interno e non al di fuori della Costituzione, mentre la concezione negativa del direttorio che sento in questo periodo è il timore che questo si collochi al di fuori della Costituzione, quindi fuori dalle regole del gioco. Ma all'interno delle regole del gioco tutti possono accettarlo. Infine, l'appello di Jacques Delors ad approvare la Costituzione europea al più presto. Una Costituzione è necessaria, non possiamo rimanere senza, anche se questa entrasse in vigore dopo il 2009. Nei confronti dell'opinione pubblica, con una fase pericolosa delle elezioni europee che potrebbero portare ad un grande astensionismo, c'è la necessità di cambiare il clima prima di queste elezioni. Primavera, tempo di bandi Erasmus, gli stessi che in 15 anni hanno permesso a 1 milione di studenti europei di trascorrere 6 o più mesi in un'altra università dell'Unione. Per la rubrica Europa di servizio abbiamo incontrato Clara Grano, responsabile dell'agenzia Socrates Erasmus per l'Italia. con lei abbiamo discusso le modalità di partecipazione a questi bandi. Quel programma Erasmus è un programma innanzitutto voluto e finanziato da parte della Commissione Europea, Direzione Generale Istruzione e Cultura. È nato nell'87, ha compiuto 15 anni, quindi è un adolescente, noi lo definiamo scherzosamente, che ha avuto la capacità di spostare attraverso le sue varie azioni più di 1 milione di studenti universitari. Come si fa a partecipare? Ci sono dei numeri chiusi? A chi ci si deve rivolgere? Come si fa a sapere quanti sono i posti per università disponibili? Certo, allora dunque noi come Agenzia Nazionale dallo scorso ottobre abbiamo lanciato una comunità virtuale Erasmus, quindi uno spazio del tutto virtuale che ha un indirizzo preciso in internet che è http://erasmus.indire.it. In questa comunità virtuale abbiamo predisposto proprio uno spazio che viene definito bandi Erasmus, quindi le persone interessate anche per l'anno accademico 2004-2005 ad accedere ad un periodo di mobilità Erasmus avranno tutte le informazioni sui bandi che abbiamo assemblato degli ormai 130 istituti universitari italiani che partecipano a questa iniziativa europea. Vi ricordiamo che su radio24.it potrete trovare ulteriori informazioni sui temi che trattiamo in Europa di servizio. europa@radio24.it, il nostro email. Bene, per oggi è tutto. Un saluto da Sergio Nava, in studio per questa puntata curata con Cristina Carpinelli. Un grazie per la collaborazione a Marta Cagnola e per la regia a Fabio Cantadori. A risentirci a lunedì prossimo.